Piacere essere qua, mentre tornavo ho scorso un po' gli appunti della conversazione della volta scorsa, non ci siamo visti qui. Essere facile profeta negli ultimi anni è un mestiere diffuso, quindi se qualcuno di voi c'era in quell'edizione del Festival di Kanda, si ricorderà che siamo ripartiti dall'esperienza concreta dell'apprendimento di un'arte artigianale per andare poi a capire come in concreto la trasmissione dei saperi generava la trasmissione di un'economia. L'idea dell'artigiano che passa una sapienza da cuore a cuore, da mano a mano, da esperienza a esperienza, da vita a vita, come esempio della costruzione economia vera. Allora, come anche Bruni ha sottolineato, questa tematica della dialettica tra l'economia reale e l'economia fittizia è oramai ovviamente sulla bocca di tutti. Rispetto alla quale bisogna però dire che le crisi, come tutte le crisi, sono anche delle opportunità. Ecco, la prima cosa che voglio dire a tutti è sfruttare questa crisi come un'opportunità. La prima opportunità che la crisi ci dà è quella di ridiscutere tutti gli diedonne, tutte le cosiddette idee date indiscutibili sugli argomenti di cui andiamo parlando. Di idee date indiscutibili non ce ne sono, non ce n'è nessuna. Tutte le volte che qualcuno dice questo è così e non può essere che così, pone un punto di vista puramente ideologico, dogmatico, si rifiuta di discuterlo, quindi c'è puzza di pesce. Nel divenire dell'uomo, tutto ciò che l'uomo costruisce è destinato a passare. Quindi un certo tipo di mondo sta passando, noi siamo in una fase di transizione, le fasi di transizione sono naturali e sono successive, lo scopo è capire i motivi della transizione e pilotare la transizione verso un obiettivo decente, un obiettivo giusto, un obiettivo bello, un obiettivo buono, giusto, bello e buono, che sono tre aggettivi che riprendo dalla speculazione degli antichi greci, quando indicavano cos'è il bene, il giusto, il bene e il buono. E in un contesto di crisi ricominciare a guardare il rapporto tra economia reale, quella che facciamo tutti noi, quella che fa chi produce pompe per biciclette piuttosto che piastrelle, e le grandi vicissitudini dell'economia irreale, dell'economia potremmo dire fantasma, se come tutti i fantasmi non irrompesse nella realtà, questa opportunità ci è preziosa. Perché se la sfruttiamo scopriamo che effettivamente siamo, uno dei motivi fondamentali per cui questa crisi ha rischiato di travolgerci è perché di fronte alle prime avvisaglie di questa crisi che risalgono a numerosi anni fa e proviene l'onda lunga dagli Stati Uniti, come tutti sappiamo, questo tipo di lezione, cosa stava accadendo, non è stato immediatamente riconosciuto per quello che era. Si è pensato fosse un problema americano, si è pensato fosse un problema transitorio, non si è capito che era un cambiamento epocale, non si è ricordato che noi siamo ancora in quell'appendice della seconda parte del Novecento, dove nel giro di poche decine di anni abbiamo assistito a una serie di cambiamenti assolutamente epocali. E il mondo che ho conosciuto io quando facevo le scuole elementari, dove c'erano i blocchi, c'era l'Oriente e l'Occidente, c'era l'Unione Sovietica e c'erano queste cose qui, è oramai agli occhi dei miei figli che hanno 20 anni lontano come quello delle guerre puniche. Ma questo cambiamento, che per la loro generazione è scontata, spesso per la nostra non è stato pensato, non l'abbiamo riflettuto, non l'abbiamo capito. Se nel 1989-91 è caduto una parte del vecchio mondo, nel giro di 2 anni abbiamo visto cadere la facciata a noi più prossima di una parte del vecchio mondo uscito da Yalta dal secondo dopoguerra, che era la struttura di potere comunista, 20 anni dopo noi assistiamo a una messa in crisi radicale dell'altra metà. E questo non può sembrarci strano. In un sistema bipolare, quando casca uno dei pilastri che tiene in piedi la costruzione, volete che l'altro tenga a piedi tutto da solo in eterno? No, no, non è possibile. E di fatto, nel momento in cui il grande sistema che noi potremmo definire, oggi lo definiamo turbocapitalista, cioè diremmo del capitalismo realizzato, è dilagato e ha acquistato di fatto tutti gli spazi che prima erano di pertinenza dell'arcinemico, il sistema del comunismo realizzato, questo è esattamente il momento specifico in cui dopo pochi anni questo sistema è andato in crisi. È andato in crisi vittima di una contraddizione fondamentale, che è di nuovo di tipo storico, cioè una contraddizione tra un'idea, che fa a pugni con la realtà e quando occupa tutta la realtà non può che entrare in conflitto con essa diametrale. L'idea è l'infinita crescita del mercato. L'idea che il mercato possa crescere infinitamente è un'allucinazione. Sarebbe interessante vedere che droga ha preso chi l'ha pensata. Sarebbe come dire un insieme finito, come non dico il nostro mondo, il nostro universo tutto quanto assieme, vi possa essere qualcosa di infinito. L'universo non è infinito, il nostro mondo non è infinito, la nostra vita non è infinita, le nostre risorse non sono infinite. E quindi in questo contesto dove nulla è infinito dovesse esserci qualcosa che invece procedeva in eterno verso il sole, verso le stelle, senza flettersi mai. Ci si è creduto. E a un certo punto questo credersi ha provocato un urto, perché quando va a stare la curva e uno non vede la curva ci va a sbattere il conto. Quindi crisis, che significa anche da questo punto di vista un rimescolamento interiore, è un momento ideale per ricominciare a guardarsi più i piedi che non troppo in alto. Perché i piedi si parlano dell'economia reale, mani se volete, si parlano dell'economia reale. Troppe idee si parlano di un'economia distorta. L'economia distorta è l'economia, ad esempio, dei derivati che nel loro valore totale, sappiamo tutti benissimo, eccedono di numerosissime volte il prodotto interno lordo del mondo intero. Per cui, di fatto, tutto ciò che noi possiamo fare, omini operosi di tutto il globo, non arriva a una percentuale ragguardevole di quello che fanno dei sistemi che poi sono sempre di più non umani, cioè computerizzati, di gestione di una ricchezza puramente astratta. Eppure tutti questi meccanismi astratti, gestiti da sistemi computerizzati sempre più veloci, che quindi fanno sempre più a meno della mediazione umana, perché la mediazione umana ha dei tempi che invece non vanno velocizzati oltre la nostra capacità di reazione, allora è chiaro che di fronte a questo meccanismo ci troviamo in una situazione apparentemente senza via d'uscita. Noi che produciamo piastrelle, che produciamo conoscenza, che curiamo le persone, cioè che creiamo la cultura e quindi l'economia vera, perché l'economia non è distaccata dalla cultura ma è un aspetto della cultura. Non esiste aspetto della cultura della preistoria ad oggi che sia estraneo anche all'economia, ma è quello che l'ha creata. Dalla costruzione di un ponte fino alla cura delle persone, fino alla fabbricazione di un vaso, fino alla vendita di una pezza di seta dalla Cina al Medioevo, all'Occidente durante il nostro Medioevo. La cultura crea l'economia, l'ha sempre creata, l'economia non si crea da sé. Economia significa, sapete, ritorna etimologicamente al termine della gestione della casa, ma in questa casa ci vivono le persone, con quello che fanno, con quello che sono, con le loro speranze di vita, con l'idea di elevare dei figli, con l'idea di essere felici. Ecco, questa opportunità che la crisi ci dà è preziosa. Io oggi vorrei darvi semplicemente alcune tappe di una meditazione che stiamo facendo con la nostra associazione Identità Europea, che è un'associazione europeista che quindi in quanto tale è direttamente interessata a capire cosa sta accadendo. Sapete meglio di me che l'Unione Europea è in prima fila in questo affrontamento speculativo internazionale, come lo è la nostra moneta l'euro, e sapete altrettanto bene che noi ci muoviamo in un contesto dove si muovono degli attori che noi non sappiamo dove vengono, dove vadano, delle società di rating, dei movimenti di borsa, che sono completamente, vuol dire, sconvolgenti la nostra vita concreta. Loro si muovono e noi in qualche modo dobbiamo subire. Abbiamo cominciato a riflettere meglio su questi meccanismi, anche confrontando quello che succede da altre parti del mondo. E abbiamo fatto delle scoperte interessanti, due ve le voglio dare adesso e poi mi taccio. La prima riguarda uno dei diedonné più blindati, più indiscutibili e in quanto tale più fasulli della nostra struttura economica occidentale. Mi riferisco alla valutazione secondo la quale una banca centrale, per essere indipendente, deve essere in mano a soci privati. Mentre viceversa, se fosse in mano un socio pubblico come uno Stato, non sarebbe indipendente e quindi non sarebbe funzionale. Questo è, come dire, un discorso che noi ci sentiamo recitare nelle orecchie talmente tante volte che lo diamo assolutamente per scontato. Una banca in mano a una serie di soci privati è una banca indipendente, una banca influenzata dallo Stato più o meno non lo è. E purtuttavia questo, se guardiamo le esperienze degli altri contesti, non è così. In questo estate ho avuto modo di affrontare una discussione piuttosto approfondita, direi che dall'antropologico andato subito all'economico, con una serie di docenti universitari giapponesi. Il Giappone in questo momento, se consideriamo l'Unione Europea, come francamente ancora non è, un insieme abbastanza coeso, un'economia unica, è la quarta economia del mondo. E uno di questi docenti universitari giapponesi, che per ventura è mio cognato, è un sociologo di ottima fama dell'Università di Tokyo, ha voluto proprio approfondire questo tema della crisi. Perché loro l'hanno già passate 2 o 3 ondate, ma non è mai esistito là questa percezione di fine del mondo che invece viviamo noi. E su questa percezione, che è strumentale, a mio parere, tornerò dopo grazie a un autore tedesco che recentemente ci ha acceso un paio di lampadine in argomento. Questo mio amico, ormai parente acquisito, giapponese, mi ha chiesto effettivamente come funzionava il meccanismo appunto dei finanziamenti degli stati alle banche, Unione Europea, Banca Centrale, e come era strutturata questa rete. E allora ovviamente gli ho spiegato che la Banca Centrale è un ente partecipato dalle banche, cioè la Banca Centrale Europea è partecipato dalle banche centrali dei paesi che la compongono. E le banche centrali dei singoli stati dell'Unione Europea, seconda domanda, è un ente privato costituito da partecipato da una serie di banche nazionali con diverse percentuali, quindi sono tutti soggetti privati che compongono questo soggetto che è la Banca Nazionale Italiana, che partecipa pro quota alla costituzione di un altro soggetto privato che è la Banca Centrale Europea. Il commento di questo docente universitario è stato castico, cioè si può capire, siete dei pazzi. Il suo commento è stato: siete dei pazzi. La Banca Centrale del Giappone è da sempre al 100% proprietà dello Stato. E ha soggiunto: figurati se gli interessi di banchieri privati coincidono con quelli della collettività. Queste sono due frasi che arrivano da un amico e parente acquisito dell'Università di Kyoto, sociologo della conoscenza. Ve le do per quel che valgono, probabilmente sono delle boiate che arrivano da un paese sottosviluppato che non sa fare nulla in economia, non capisce niente e vive ancora tale la vita. La seconda cosa che invece sta emergendo adesso è si associa a questa valutazione, perché tutti noi siamo in effetti in un momento dove stiamo soffrendo, tutta l'economia reale sta soffrendo, chi produce sta soffrendo, chi fa il professionista sta soffrendo. Perché? Perché vi è un movimento di fondi incredibili che passano dagli stati, o meglio, dalla Banca Centrale Europea agli stati, e finiscono in colossali progetti di salvaguardia del sistema bancario di alcuni paesi dell'Unione Europea. Però ovviamente la Grecia, ma anche la Spagna e anche altri, ma l'Irlanda tempo fa e cose del genere. Sull'ultimo numero di Limes, che è questa rivista di geopolitica del gruppo editoriale L'Espresso, che è una delle voci più qualitativamente elevate, ed è anche più coraggiosa, dove si incrociano più competenze diverse, diretta da Lucio Caracciolo, uno studioso tedesco, questo lo stavo leggendo proprio la settimana scorsa, mi si è accesa una piccola lampina in testa che voglio condividere con voi, uno studioso tedesco che si chiama, vediamo un po' di trovarlo, eccolo qui, l'abbiamo trovato, Heribert Dieter, che è il presidente di una fondazione per la riforma del mercato finanziario che opera in Germania, partendo dal caso spagnolo, ma allargandolo a quello italiano, irlandese, domani di altri, fa alcune note. E queste note sono note, a mio parere, estremamente provocatorie. Se non fosse in qualche modo per l'autorevolezza della sede dove compaiono, potremmo pensare a cose un po' bizzarre. Però siccome la sede è obiettivamente autorevole, forse questo ci aiuta a pensare in modo nuovo che non tutto ciò che diamo per assodato lo è semplicemente frutto di un'abitudine mentale e di un po' di pigrizia. Parlando del governo spagnolo, dice, possiamo anche estenderlo forse ad altri governi, dice che quello che colpisce è stata la mancanza di strategia del governo spagnolo riguardo al settore finanziario del proprio paese. In sostanza, di fronte a speculatori che hanno rischiato troppo e sono oberati dai debiti, un governo può scegliere tra 2 alternative strutturalmente diverse. La prima è quella di assumersi la responsabilità dell'attività di aziende private e cercare di salvarle. Comunque la si metta, ciò significa socializzare le perdite di banche private. Questo è il metodo applicato in Spagna ed è proprio quello che ha portato al crollo dell'Irlanda. Ovviamente, dice il nostro autore, si tratta di un approccio del tutto estraneo all'economia di mercato. le banche che non sanno fare il loro mestiere dovrebbero essere espulse dal mercato e non andrebbero salvate, come qualsiasi ditta che fa piastrelle o fa qualsiasi altro vino. E perché questo invece non succede? Sostiene questo analista tedesco che ciò dipenda da una fortissima campagna di pressione strutturata a livello europeo, che lui definisce la crescente influenza esercitata dal settore finanziario sulla vita politica dell'Unione Europea. L'uso ormai inflazionato del concetto di banca di importanza sistemica, leggo due brevi frasi, va a dimostrare il successo della martellante campagna lanciata dal settore finanziario. Molti istituti di credito rivendicano questo ruolo, ma il fatto che la BCE usi più spesso questo termine è la riprova della soverchia influenza esercitata dalla finanza. L'ironia vuole che in Europa la finanza sia riuscita a far apparire i propri interessi come conformi alle legittime esigenze di chi aspira a una maggiore cooperazione e integrazione su scala europea. Ed Hitler, che è un autore vicino alla sinistra tedesca, nota, persino i partiti di sinistra, come i socialdemocratici e i verdi in Germania, si sono cascati con tutte le scarpe. E questa persuasione, conclude, è probabilmente il frutto di una delle campagne di propaganda più efficaci che la storia abbia mai conosciuto. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché in realtà il fatto che l'economia reale debba svenarsi all'infinito per permettere a un'economia reale di continuare a sussistere è un dato che va abbondantemente ripreso in mano e ridiscusso. E questo lo dico a nome di tutte le persone che dal basso della piramide hanno sprecato sudore e sangue. Qualcuno di loro non ce l'ha fatta a sopportare le difficoltà in cui questo tipo di clima finanziario ci ha buttato tutti quanti, qualcuno si è pure ammazzato, io ho partecipato a una bellissima iniziativa organizzata da Nicol per la Confartigianato di questa provincia, che ringrazio sempre, su questi temi, e mi chiedo fino a che punto si debba pagare non solo denaro, ma sudore, sangue e vite umane per permettere a degli speculatori di continuare a speculare. È una domanda che mi pongo e che vi pongo, non voglio anticipare le mie risposte non hanno nessun senso e nessun valore, però va già molto bene se cominciamo a porci delle domande giuste rispetto alle quali forse riusciremo anche a cavarci fuori delle risposte. Quindi, grazie.